Nessun luogo è lontano di Giampaolo Musumeci. Buona giornata, gentili ascoltatrici e gentili ascoltatori, ben ritrovati. Questa è Nessun Luogo Lontano, puntata speciale di Ferragosto, dove ci stacchiamo un attimo, come amiamo ogni tanto fare, dalla strettissima attualità internazionale per affrontare un tema particolare da un punto di vista particolare. I saluti ve li porgo anche a nome di Antonio Talia, Eleonora Aragona, Silvia Malnati, che hanno scritto con me anche questa puntata, e Gianmarco Ferronato, che è invece in regia. Vi ricordo che anche questa puntata la potete riascoltare sul sito di Radio 24, radio24.it, cercate il podcast, gli ultimissimi aggiornamenti li trovate anche sulla pagina Facebook del programma Nessun Luogo Lontano trattino Radio 24, poi siamo anche su Twitter, l'indirizzo è Giampaz, oppure Nessun Luogo 24. Se dovessimo trovare un titolo per la puntata di oggi, beh, potrebbe essere Musiche in Prima Linea. Musica in prima linea perché quest'oggi vi racconteremo delle storie di musica, appunto, di brani, di musicisti, di persone che o sono fuggiti dalle guerre o che raccontano guerre particolari. La musica, in effetti, e vi racconteremo storie differenti di questo tipo, spesso concorre a formare un'immagine, a costruire un'epica che è molto, a volte, molto utile agli attori di quel conflitto. Un caso emblematico è quello che riguarda i narcotrafficanti in Messico. E chi, meglio di Fabrizio Lo Russo, ci può raccontare l'ambiguità del rapporto fra narcotrafficanti e corridos? Fabrizio Lo Russo è un giornalista, ma è anche un docente universitario. Fra i suoi libri vi sono Narcoguerra, cronache dal Messico dei cartelli della droga e Messico invisibile. Fabrizio Lo Russo, iniziamo a inquadrare la questione. Che rapporto c'è tra i corridos e i vecchi canti rivoluzionari messicani? Sì, i vecchi canti rivoluzionari messicani, anch'essi si chiamavano corridos, no? Sono i famosi corridos della Revolución, dedicati appunto negli anni della Revolución, tra il 1910 e il 1917, ai grandi e famosi combattenti delle varie fazioni in lotta, no? Da Obregón a Pancho Villa, Zapata. E in realtà il corrido esisteva già, i primi, diciamo, le prime registrazioni musicali del corrido avvengono sì all'inizio del Novecento, ma il genere come tradizione orale esisteva dalla fine dell'Ottocento ed erano i corridos del contrabbando che era di merci dagli Stati Uniti al Messico, merci di consumo, vestiti, oggetti, mobili, eccetera. E poi durante la Revolución viene adottata questa forma musicale molto ritmata, molto facile da ricordare, propria della tradizione orale, no? Ripetitiva, in rima, eccetera, per parlare non solo dei contrabbandieri, ma anche dei rivoluzionari, dei combattenti, degli eserciti. Poi in seguito c'è un'altra evoluzione, si inizia a parlare sì di contrabbando, ma di contrabbando di droghe, prima degli alcolici durante il proibizionismo negli anni 20, perché appunto negli Stati Uniti erano vietati, e poi proprio della marijuana, degli oppiacei, la morfina, la cocaina. Sì. Fabrizio Lo Russo, nel tuo libro Messico Invisibile racconti che a volte i leader, i narcotrafficanti, quelli boss, insomma, quelli più di maggior spessore, di maggior calibro, vogliono rileggere i corridos prima della pubblicazione. Che rapporto c'è tra un artista, tra un musicista e il boss del narcotraffico? Sono situazioni molto diverse tra di loro e dipende dalla regione, dal gruppo, anche dal cartello di narcotrafficanti di cui si sta parlando, eccetera. Diciamo, gli esperti del settore, no, proprio anche discografici, dividono i narcocorridos attuali che poi hanno vari sottogeneri, ci sono quelli duri, pesanti, perrones, o quelli del movimento alterato, che sono detti anche malati, che parlano di violenze, vendette, ostentazioni, quindi sono quelli più pesanti. Però ecco, i discografici dividono il genere in corrido classico, che proprio tratta di un personaggio, e quindi questi sì hanno bisogno di un permesso speciale o di qualche emissario o qualcuno che approvi il testo e che corrobori anche poi quello che viene raccontato sì. nella canzone sì. E poi ci sono quelli arremangados che parlano di stile di vita, di storie eccetera, più fantasiose, che non hanno bisogno del permesso. Arremangado è quello che facciamo con le maniche, no? Rimboccarsi le maniche sì. significa. Quindi sì. il corrido classico su un personaggio in generale, secondo molti discografici sarebbe meglio che avesse questo permesso, per cui la relazione esiste, ma non sempre è così diretta. Un'altra relazione è che molte bande, soprattutto nel Sinaloa, cantano a feste, matrimoni e cerimonie organizzate da diversi gruppi, tra cui i potenti dello Stato, tra cui chiaramente anche i narcotrafficanti, no? Oltre ai sì. politici e agli imprenditori, no? Quindi sì. diciamo, l'elite tripartita di alcuni stati del Messico. Certo. E com'è il lessico? Come avviene la celebrazione in musica? Un po' li ascoltiamo e li ascolteremo, no? In questa pagina di Nessun Luogo Lontano dedicata alla musica in prima linea, è il caso di dirlo, lì in Messico. E com'è la celebrazione dei boss o l'avallo dei boss, insomma, come vengono raccontati? Allora, intanto c'è una prima epoca in cui questo non avveniva, in cui la relazione era più distante, in cui i corridos servivano veramente da notiziari o giornali musicati. E quindi cantavano, diciamo, alcune gesta storiche o la vita quotidiana lungo la frontiera, normalmente con il Texas, soprattutto per esempio a Ciudad Juarez, comunque lungo la frontiera Messico-Stati Uniti, no? E quindi questi sì, cantavano le gesta o le avventure in mezzo a rangers del Texas, poliziotti messicani, contrabbandieri eccetera, e anche narcotrafficanti già, in un certo modo, e quindi avevano una morale anche, in generale sconsigliavano le persone, alla fine arrivava la morale dopo la descrizione delle avventure, anche divertente, appassionante, però ecco, arrivava una morale contraria poi al commercio di droga. Attualmente, a partire dagli anni 70-80, quell'eredità di quelle prime proprio registrazioni discografiche degli anni 30 è cambiata, ed effettivamente si tessono vengono tessute le lodi di differenti personaggi, no? Anche dal Chapo Guzman, alcuni membri del cartello degli Setas, i classici degli anni 80, cioè i grandi capi, no? Don Neto, Félix sì. Gallardo, eccetera. E in questo senso già sono veri e propri elogi, e quindi vengono dipinti come personaggi tipo Robin Hood, oppure come dei santi popolari, come addirittura dei rivoluzionari, accostati anche ai vecchi corridos, quelli che cantavano magari le gesta di Pancho Villa. Sì. E per cui sì, già è cambiato il rapporto. C'è un'evoluzione poi negli anni 2000, che è quella del movimento alterato dei narcocorridos. Non vogliono poi farsi chiamare tutti narcocorridos, no? Lo vedono anche come un'etichetta sbagliata, certo. Però poi in generale si conoscono così, che non hanno nessuna morale, anzi ostentano violenze, parlano precisamente di armi, di azioni concrete, eccetera, quindi sono più pesanti in questo senso. Ecco, questa deriva, diciamo, questa componente più estrema, no, del narcocorridos, succede perché il male ha un suo ineluttabile fascino per un artista, per cui cantare quel boss con tutte le sfumature di grigio o di nero, insomma, se volete, i chiaroscuri e gli aspetti più oscuri del suo essere narcotrafficante, è per un artista comunque una forza ineluttabile, no? Per cui il male seduce. Oppure c'è un rapporto quasi di acquisto economico, insomma, c'è, come dire, un sostegno economico da parte diretto da parte, o indiretto da parte dei narcotrafficanti. E diciamo che il movimento alterato, così si chiama, poi fondato da alcuni cantanti, da una casa discografica che si chiama Twins Culiacán, no? Si trova molto su YouTube, tant'è che loro si promuovono come con le reti sociali totalmente, no? Più che con le vendite e con i concerti. ma più che ricevere la fortuna, la loro fortuna direttamente dai narcos, quello bisognerebbe vedere appunto in che eventi pubblici hanno cantato, quanto hanno ricevuto, molto, molto complicato. Certo. E in generale loro negano, anche quelli del Movimento Alterato, una relazione così diretta, però sì, sicuramente sono profondamente radicati in quella che è detta narcocultura, che dal punto di vista commerciale è redditizia ed è andata in espansione. Sono sicuramente la colonna sonora della narcoguerra, cioè di questi ultimi 10 anni di guerra militarizzata ai cartelli, e diciamo sono un termometro della società messicana. Raccontano anche un abbandono totale, dove tutte le autorità e lo Stato sono soppiantate, sostituite, in un momento di crisi permanente, di un modello economico, no, più escludente, più marginazione, sì, eccetera. E sono sostituite le istituzioni da alternative, tra cui il narcotraffico, proprio che dà lavoro, dà soldi e anche se solo per pochi anni garantisce una vita come nessun altro. Ecco, loro cantano questo, e la cosa curiosa è che però gli esponenti principali del Movimento Alterato lavorano soprattutto negli Stati Uniti. Cioè incidono, diffondono, lavorano nelle radio, stanno sui social e fanno moltissimi concerti sulla frontiera, quindi in California, in Arizona, nel Nuovo Messico, in Texas e anche in Messico. Però ecco, in Messico e il pubblico allora in quelle zone frontaliere, cioè siamo in territorio statunitense, ma hai citato stati con una forte componente migratoria messicana. Il pubblico medio, per esempio, in Arizona, che va a sentire un concerto di una di queste bande, sicuramente sono latinos, quindi intesi questi come messicani o discendenti, ma anche messicani di prima generazione, appunto emigrati negli ultimi anni da zone depresse del centro-sud, ma anche del nord, del Sinaloa, eccetera, che si creano, diciamo, una nuova identità anche grazie ai corridos, eccetera, no? Vengono reputati divertenti, anche se poi non hanno una relazione con il narcotraffico e hanno in realtà testi violentissimi, eccetera. Però è il genere che si balla, per cui latino, si intendo anche però centroamericani, colombiani, sudamericani in genere, diciamo di lingua spagnola, sì, che possono quindi comprendere perfettamente, completamente quello che si canta, e in questo senso ecco è un genere diffuso. Sì. Poi arriva anche in Messico di ritorno e quindi racconta non solo i problemi della narcoguerra messicana, ma anche quelli della generazione, cioè i problemi o le aspirazioni estreme, ecco, no? Anche della generazione di migranti. In realtà si crea una sorta di, come dire, di immaginario che poi vive con le sue gambe, no? È come se si creasse un'epica che non necessariamente è legata alla realtà messicana, ma poi vive di vita sua, passa le frontiere. E tu nel tuo libro Messico Invisibile parli di una vera e propria lotta per l'immaginario, no? Cioè questa creazione dell'epica è in qualche modo dell'epica cattiva, tra virgolette, dell'epica viziosa, dell'epica dei narcotrafficanti, è in qualche modo controbilanciata da invece un potere positivo che sia quello statale, poi lì dobbiamo anche capire quanto sia positivo, ma insomma esiste una contropropaganda, una contro anti-narco-corridos? Direi su due fronti. Uno più specifico è quello di alcuni governi che, non potendo trovare altri metodi, diciamo, più culturali, anche più di compensazione economico-culturale, quindi dal basso, no? Per frenare alcuni fenomeni, soprattutto il narcotraffico, ma anche la povertà, l'esclusione, eccetera, allora ricorrono a delle proibizioni. Per questo dicevo che vanno negli Stati Uniti a comporre, insomma, a incidere, a pubblicare i dischi, perché in Messico in certi stati non è più permesso, o comunque per alcuni anni non lo è stato, ci sono state le sentenze, eccetera, soprattutto nel Sinaloa. E poi certe cose, ecco, non le possono dire in Messico, quindi un governo che fondamentalmente si vergogna di questo genere non riesce a palliare diciamo i motivi poi reali, economici, sociali che causano la nascita anche di un genere reputato da molti antipatico, ma che alla fine rispecchia, sì, una parte di una generazione, dei giovani, eccetera, quindi non può essere demonizzato di per sé. D'altro canto però ci sono risposte positive, nel senso che il Messico produce ancora tantissime, anche a livello globale, no? Produzioni culturali, controcultura, controegemoniche, eccetera, sì, che vanno a rompere questa dinamica di violenza e a creare invece memoria, per esempio sul tema dei desaparecidos, è quello di cui parlo spesso nel libro, sì, nel Messico invisibile, no? E quindi proiettano altre produzioni artistiche, sculture, musicali, eccetera, di ribellione allo status quo e alla violenza, per cui poesia, per esempio è in uscita in Italia tra poco i 43 poeti per Ayotzinapa, no? Con l'edizione Arcoiris, anche quello come Messico invisibile, che è proprio un tentativo di spezzare, chiaramente meno massiccio, forse meno di massa, però è importante in Messico e poi nel resto del mondo un tentativo di riportare la memoria sui fatti di Ayotzinapa, quindi 43 desaparecidos, per cui sì, non c'è ancora giustizia. Soy el jefe de jefes, señores. Questa era la prima storia raccontata qui a Nessun Luogo Lontano. La puntata l'abbiamo intitolata Musiche in prima linea. Questo strano e controverso rapporto fra musicisti, cantanti, narratori di storie in musica e narcotrafficanti in Messico. C'è un filo rosso che lega l'America Latina all'Africa occidentale ed è proprio il traffico di cocaina. In Guinea-Bissau, infatti, ormai da anni si è consolidato quello che viene definito un hub, quindi uno snodo fondamentale nel traffico di cocaina. Dalla Colombia, la coca passa dalla Guinea-Bissau e poi si viene smistata verso il nord Europa in varie modalità. E c'è un luogo particolare della Guinea-Bissau, che sono 88 isole, le Bijagos, di fronte alla capitale Bissau, sono quasi tutte semideserte, oasi naturale, paesaggi splendidi, meravigliosi, e piccole piste costruite ormai ai tempi coloniali, che piccoli aerei gestiti dai colombiani utilizzano appunto per il traffico di cocaina. In passato parecchie denunce da parte dell'ONU, ma anche da parte di giornalisti, hanno evidenziato il benefico ruolo svolto dai militari in Guinea-Bissau, proprio coinvolti nel traffico di cocaina. E quindi, come potete immaginare, un potere forte, un potere consolidato di fronte al quale la società civile faceva fatica a tirar su la testa. Chi lo ha fatto? Beh, sono stati un manipolo di giovani rapper guineensi, cantano in varie lingue, mixano il creolo, l'americano e il portoghese. Il risultato suona più o meno così. Yeah, represent and be one shot, you know. Mio amico, mio hermano, ho sempre esconsiglio con enemy da dao. Dissa droga, droga un cabali, droga un tadudu si, droga dusta cascas. Espera da Milcar Cabral, es colônia de Portugal, de que 80% de povo tá vive mal. Vizinho de Conakry, Senegal, situado na costa ocidental, sucundiram na quintal. Le rime e i versi che sentite li ho registrati nel 2009, proprio a Bissau. E chi sta rappando è in un esempio, in una prova di freestyle, di improvvisazioni, è DJ Mbatu, che fa parte di una formazione rap che da alcuni anni, era il 2009, da alcuni anni già stava puntando il dito contro la collusione tra l'esercito della Guinea-Bissau e i narcotrafficanti colombiani. Era una delle poche voci, oltre alla comunità internazionale, che cercava di esprimere un dissenso verso quella viziosa e benefica situazione. DJ Mbatu raccontava all'epoca che più volte erano stati arrestati lui e i componenti della sua band proprio dagli stessi militari, erano stati in carcere, erano stati anche picchiati perché insomma i militari non tolleravano voci dissonanti. Quale genere se non il rap si presta proprio a essere una voce contro? E quelle che sentite invece sono le note di un'altra formazione, MC Mario Max Posh featuring Pace, DJ Rima e Don Pigna, Relatorio. Beh, dopo DJ Mbatu diciamo che è stata un po' spianata la strada a questo anti-narco rap. E la storia però in Guinea-Bissau non si è fermata, diciamo che si è fatta forse più sotto traccia. Novembre scorso l'ufficio antidroga delle Nazioni Unite ha dichiarato in una conferenza stampa che dal 2011 in Guinea-Bissau sono state sequestrate 34.000 kg di cocaina e 22.000 kg di marijuana. 58 trafficanti sono stati indagati. Il problema qual è? Che le risorse sono estremamente limitate. Io ricordo che nel 2009 era stata costruita e inaugurata la prima prigione della Guinea-Bissau, perché anche se la polizia arrestava i trafficanti non sapeva dove metterli. Un altro esempio incredibile, eclatante, era che non avevano le manette e non avevano la benzina da mettere nelle automobili. All'epoca peraltro conobbi una dirigente di polizia che poi, dopo ripetute minacce, si dimise e gettò la spugna. A suon di musica e a suon di rima stiamo raccontando quello che in molti analisti e giornalisti hanno definito un narcostato, cioè uno stato estremamente fragile, estremamente debole, con un esercito corrotto e coinvolto appunto nel narcotraffico, e dove, passatemi l'espressione, ma uno degli hobby nazionali era il colpo di stato. E i governi si sono susseguiti in maniera anche violenta negli ultimi anni. Quello che è rimasto è l'assenza totale di infrastrutture, di stato sociale, e quelle isole Bijagos meravigliose, che potrebbero essere una fonte di turismo incredibile per questo povero stato, che in realtà sono sfruttate soprattutto dai trafficanti di cocaina. La cocaina arriva dall'America Latina non soltanto via aerea, ma anche e soprattutto, così denunciano le autorità, via mare. Questo rende i controlli estremamente difficili, perché solo recentemente il guardiacoste guineense ha ricevuto due navi, due barche più che altro, dall'amministrazione portoghese. E quindi è in Guinea-Bissau la storia un po' che si ripete. Vi sono esempi virtuosi di poliziotti, di giudici, di magistrati che tentano di fare il loro lavoro, ma purtroppo hanno le armi spuntate. Pro mais burro com cedo, ora que faço questão de promover o burro essa. E até tem sempre burro que tá me sincero, burro suma boa. In questo contesto di estrema fragilità delle strutture statali, di assenza totale di infrastrutture, è però ricordo che verso il nord, verso la Casamance, c'era qualche piccolo esempio di turismo, soprattutto locale, anche se incontrai, ricordo, alcuni francesi che stavano facendo un viaggio appunto verso il nord della Guinea-Bissau. Ebbene, cito il turismo non a caso, perché vi dicevo di queste isole Bijagos, che sono un patrimonio incredibilmente bello e incredibilmente attraente. La comunità internazionale, il marzo di 2 anni fa, ha stanziato più di 1 miliardo di euro per un supporto, per un piano che durerà 10 anni, proprio per tentare di attrarre turisti e rivitalizzare, o meglio dare vita, perché quasi non c'è, all'industria del turismo appunto della Guinea-Bissau. Forse in quel modo e a suon di musica di quel rap anti-narcos ci dimenticheremo di quella benefica etichetta del narcostato. Con musica in prima linea, questa puntata speciale di Nessun Luogo Lontano, facciamo una piccola pausa, poi torneremo a sentire musiche impegnate che raccontano la guerra oppure che la fuggono. Roma-Napoli, in auto con un'amica, io, lei e il sistema digital radio. Accendiamo la radio? Hai detto radio? Te la faccio ascoltare in digital. Cioè? Sulla mia auto puoi ascoltare i programmi che ami di più con il suono perfetto, grazie alla digital radio. Ce l'ho anche a casa. Tu no? Se ami la radio, muoviti a provarla in digital, in auto e a casa. Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus. Anche Radio 24 è in Digital Radio. Attenzione, attenzione, fermi tutti. Uscite immediatamente dall'acqua. Mollate tutto. Pinne, braccioli, salvagenti. Accendete Radio 24 e ascoltate i Fuori Posto. Com'era, Fili, li ho convinti? Sì, per me andava bene, un ma c'è solo un piccolo problema. Non hai spiegato perché le persone dovrebbero ascoltare sto programma. Ma di che parla? Ah sì, è vero, c'è ragione Filippo. Aspetta, aspetta. Cari bagnanti, tutti voi almeno una volta nella vita vi siete sentiti fuori posto, e noi parleremo di quelli che sono alla ricerca di un posto di lavoro nel cuore di qualcuno, quelli che un posto prima ce l'avevano e ora non ce l'hanno più, e parleremo anche di quelli che invece hanno scelto di stare nel posto sbagliato. E chi lo conduce? Come chi lo conduce? Filippo, io e te. I Fuori Posto con Umberto Alezio e Filippo Roma. Da lunedì a venerdì alle 10 su Radio 24. Oh, aspetta, aspetta! Lasciateci i vostri messaggi a ifuoriposto@radio24.it o allo 0246524182 o via sms al 349-2386666. Nessun luogo è lontano. Sono felice, felice come un merlo. La mia vita è in una roulotte, pensando ai miei amici. Andiamo in giardino. Le parole che avete sentito sono uno dei versi di una canzone, che è quella che state sentendo, Kandahar. Il testo è stato scritto da due sorelle afghane, due profughe, una di 9 anni, l'altra di 12, ed è stato scritto in un luogo molto molto particolare. Era la giungla di Calais. La giungla di Calais è un luogo particolare, nel senso che esiste da alcuni anni, periodicamente viene distrutto, raso al suolo dai bulldozer della polizia francese e poi irrimediabilmente viene ricostruito dai tanti migranti che, ormai da anni lo sapete, tentano il passaggio della Manica e quindi vogliono spostarsi dalla Francia e arrivare nel Regno Unito. La jungle di Calais ha vissuto momenti anche di forte tensione con il governo francese. Tutto in realtà risale a molto prima del 2008-2009, quando esisteva un centro della Croce Rossa vicino Sangat, che poi fu chiuso. Calais è uno di quelli che potremmo definire i non luoghi dell'immigrazione, questi luoghi di transito, questi imbuti dove i migranti appunto si fermano, ed è quello che le ultime ore ci hanno raccontato sta accadendo allo stesso modo, ad esempio, a Ventimiglia o a Como, alla frontiera con la Svizzera, con Chiasso. Kandahar è, dicevo, la canzone, una delle 13 tracce contenute in un album che si chiama The Calais Sessions, che è stato pubblicato il 29 luglio di quest'anno. È stato registrato proprio in questo campo profughi e mixa vari generi, come potete immaginare, perché i musicisti per la maggior parte sono intanto amatori e in secondo luogo sono appunto migranti e sono profughi. Le storie che sono raccontate, ve ne cito un paio. C'è Casper, che è un rifugiato iracheno di 24 anni, che canta la sua University Story, che è un rap che racconta di una storia d'amore, e soprattutto la cosa curiosa è che questo rap viene recitato al telefono appunto dal campo profughi di Calais. La maggior parte dei musicisti e dei cantanti che potete sentire in questo album sono amatori, però vi sono anche un paio di casi di musicisti e cantanti professionisti. Uno è Mohaldin, che è un cantante appunto dalla Siria, e l'altro è Ismail, un afghano che ha raccontato una storia veramente tragica. Infatti, prima di lasciare il suo paese, l'Afghanistan, non riusciva più a suonare perché viveva in una zona controllata dai talebani, e nel suo racconto i talebani sono andati da lui e, per impedirgli di suonare, gli hanno immerso il braccio destro, che è quello che lui usa per suonare il dambora, che è questa lunga chitarra, questa specie di chitarra tra chitarra e arpa, questo strumento tipico afghano. Ebbene, gli hanno immerso il braccio destro nell'acqua bollente, appunto per evitare che suonasse. I talebani consideravano, secondo il racconto di Ismail, la sua musica non appropriata. Vi stiamo raccontando l'esempio di Calais, di questo gruppo di musicisti, di profughi che lì da quella giungla, da quella situazione estremamente disagiata, cercano anche di rimodellare l'immagine che abbiamo, forse la maggior parte di noi, dei migranti, dei profughi, dei rifugiati, immagine fatta di povertà e spesso costruita da vari reportage che non fanno che insistere su aspetti pietistici del fenomeno dell'immigrazione. Qui invece c'è anche un aspetto virtuoso, un aspetto artistico che sottolinea invece la speranza e la voglia di andare avanti. Ebbene, quest'album e soprattutto quella canzone Kandahar credo che sia un esempio virtuoso. Nelle prossime pagine di Nessun Luogo Lontano, o nelle prossime tracce forse dovrei dire, per omaggiare metafore musicali, sentiremo ancora musica e sentiremo ancora storie. La prima, la prossima che vi racconto, risponde a una sigla e la sigla è Sepo. Sepo è infatti l'acronimo di Syrian Expat Philharmonica Orchestra. Se volete sapere come suonano, l'appuntamento è il 27 agosto a Berlino, quando apriranno la stagione della Filarmonica di Berlino, appunto. Se invece volete sapere chi sono, state con noi. Il fondatore della Sepo si chiama Raed Jazbe, ha 29 anni, è originario di Aleppo, ha studiato contrabbasso all'Academy of Music di Damasco, che è l'unico conservatorio in Siria, e nel 2013 è emigrato in Germania chiedendo poi asilo politico. Ha fondato la Syrian Expat Philharmonica Orchestra nel 2015, dopo essersi accorto che molti dei suoi compagni musicisti all'Accademia di Damasco, pensate un po', erano scappati in Europa proprio per sfuggire alla guerra e perseguire il destino che lui, 2 anni prima, aveva fatto. Raed si è occupato personalmente di contattare tutti i musicisti e l'ha fatto in che modo? Attraverso Facebook. Il primo concerto della Sepo si è svolto a Brema, la città tedesca, il 22 settembre del 2015 e hanno partecipato 63 musicisti. Oggi alla Sepo ci sono tra i 75 e gli 80 artisti che provengono un po' da tutta Europa. La formazione varia a seconda del concerto e della location in cui appunto questa orchestra suona. Non si tratta, come immaginate, solo di rifugiati, ma anche di espatriati che vivono in Unione Europea ormai da diversi anni. E adesso vi facciamo sentire le voci di Raed Jazbe, ma anche di Falco Oenisch, che è il direttore esecutivo della Sepo. La prima domanda che abbiamo fatto a Raed, il contrabbassista siriano, è come è stato suonare insieme per la prima volta. It was a very emotional moment. È stato un momento molto emozionante. Si prova una sensazione fantastica a rincontrare i tuoi amici dopo 3, 4, 5 anni che non li vedi. Ce ne accorgiamo specialmente durante le prove, mentre si prepara il programma del concerto. Ci sembra di essere di nuovo in Siria assieme, perché ci conoscevamo già da prima di venire in Germania. È un momento bellissimo, puoi vedere la felicità negli occhi dei musicisti. E in questa puntata speciale di Nessun Luogo Lontano, che abbiamo intitolato Musiche in Prima Linea, musiche impegnate che raccontano guerre o che fuggono da guerre, vi stiamo raccontando quella di un gruppo di rifugiati siriani che in Germania fonda un'orchestra. E sta parlando Raed Jazbe, ci sta raccontando com'è stato suonare insieme per la prima volta, ma soprattutto che cosa rappresenta la musica siriana, loro che sono scappati dalla Siria, per questa formazione. Sentite. For sure all of us. Abbiamo tutti studiato musica classica e ovviamente siamo in grado di suonarla, ma ora, quando suoniamo la nostra musica siriana sinfonica, ci facciamo portatori della nostra specifica identità. Alcune delle composizioni che eseguiamo sono opere molto recenti di musicisti siriani, caratterizzate da sonorità del mondo arabo. Quando senti questa musica ti vengono in mente molte immagini della Siria e dei paesi arabi. Abbiamo scelto di suonare anche composizioni prese dalla musica popolare siriana. Questo ti fa ricordare il passato. I temi che tratta questa musica sono la nostalgia per la terra d'origine, l'amore, i ricordi. E questo era Raed Jazbe, ma sentite che cosa dice Falco Oenisch, che è il direttore esecutivo di questa Sepo, della Syrian Orchestra, fatta appunto soprattutto da rifugiati. È molto interessante perché sottolinea quel tema che ho già toccato prima di ritratteggio dell'immagine dei rifugiati. Ho sostenuto il progetto perché, nonostante tutte le atrocità che mostrano i media, come l'assedio di Aleppo e i naufragi nel Mediterraneo, la musica di Sepo è in grado di proiettare immagini armoniose, musicali e melodiose della Siria. Sebbene sia un paese distrutto dalla guerra, SEPO riesce a mostrare ai paesi dell'Unione Europea che la Siria è molto di più di un regime, del conflitto, delle città in fiamme. La Siria è stata anche un importante polo culturale di riferimento per tutto il mondo arabo. Ma torniamo a quella data, quel 22 settembre del 2015, quando 63 musicisti, quasi tutti siriani, salgono emozionatissimi sul palco di fronte a un pubblico tutto europeo. Com'è stato il primo concerto della SEPO? Sentite come Falco Önisch ricorda quella serata. C'erano molti rifugiati nella sala del concerto e sono avvenute diverse reunion tra pubblico e membri della SEPO. Mi ricordo che un ragazzo seduto in platea riconobbe tra i musicisti sul palco un amico, il suonatore di corno, con cui aveva fatto il servizio militare in Siria. Si sono incontrati dopo moltissimi anni, è stato molto emozionante. Al primo concerto c'erano molti rifugiati tra il pubblico, erano tutti molto contenti. A un certo punto hanno alzato il loro smartphone per registrare la musica e i canti del concerto perché gli ricordavano la loro terra. Volevano riuscire a conservare e portare a casa o nel campo rifugiati queste melodie. Era un modo per rivivere di nuovo la loro cultura. Musica in prima linea oggi è Nessun luogo lontano, è il racconto di musiche impegnate, di musiche che fanno la guerra, di musiche che fuggono la guerra. Vi abbiamo raccontato la guerra contro i narcotrafficanti, vi stiamo raccontando attraverso le note di chi è scappato la guerra siriana. Perché la SEPO, questa formazione, ha scelto di suonare solo ed esclusivamente musica siriana? Sentite cosa dice Falco Önisch. La musica classica non è mai stata così tanto popolare in Siria, ma ora i rifugiati, ovunque si trovino nel mondo, hanno una voglia incredibile di riprendere la loro cultura e le melodie siriane. Quindi le persone che non avrebbero ascoltato questo tipo di musica in Siria oggi invece l'apprezzano, dato che per i siriani in diaspora è molto difficile mantenere vive e conservare le tradizioni e i ricordi della loro vita in Siria. Molte persone partecipano ai nostri concerti per recuperarle e ci sono davvero riconoscenti per questo. L'orchestra SEPO è ambasciatrice della cultura siriana e del passato della Siria. Certo, la SEPO è in grado di suonare Mozart, Schubert e Beethoven allo stesso livello di tutte le orchestre classiche europee, ma perché dovrebbe farlo? Lo fanno già in tanti. La SEPO si concentra sulla musica siriana classica e contemporanea ed è questo che la rende specialistica e speciale. La musica che diventa bandiera, che diventa alfiere di cultura e che va anche a smontare alcuni stereotipi. Certo, la musica classica siriana non è, come avete sentito, particolarmente nota, è proprio per questa la scelta della SEPO, è quella di mettere la quinta, di farla conoscere, soprattutto per tutti quei milioni di siriani che oramai hanno lasciato il loro paese e portano con sé uno stigma che è soprattutto e anche iconografico, quell'etichetta, quell'immagine del disperato siriano senza più patria che vaga per l'Europa. No, stiamo parlando di musicisti, di artisti con la loro cultura. La SEPO rivendica tutto questo. Adesso una piccola pausa e poi continua la puntata di Nessun luogo lontano, tutta dedicata alla musica in prima. A volte basta accendere la radio per ritrovarsi comodamente seduti al cinema. Sa perché mettono le maschere d'ossigeno sull'aereo? Per poter respirare. L'ossigeno ti fa sballare. Una storia speciale che assomiglia un po' a un film, un po' a un romanzo e un po' a un ricordo personale è qualcosa di unico che può arrivare solamente attraverso la radio. Ehi, bentornato a casa, Vic. Grazie. Che effetto fa la libertà? Piacevole. Sembra niente, ma è proprio così. Audiogrammi Reloaded. Una storia come non l'avete mai ascoltata. Di Paolo Corleoni e Laura Faggin. Sabato alle 15 e domenica alle 23 su Radio 24. E in podcast su radio24.it. Nessun luogo è lontano. Ah. ساعات جلسة بحالي أقعد فيها أفكر أتذكر إيش كثيرة كنت فيها معاك نقص كذب على كلها ترتي فيها عشان يندمع علقتي فيها أمالي كنت في إيدي بدرب الشرع. E la storia che vi abbiamo raccontato sulla SEPO, su questa orchestra di rifugiati siriani, la quarta storia tutta in musica di quest'oggi, Nessun Luogo Lontano. Ebbene, questa storia ci apre un po' il capitolo, se volete, della musica che racconta l'immigrazione, che cerca di riscrivere anche l'epica e la narrazione dell'immigrazione, soprattutto di quell'immigrazione e di quei movimenti di persone che fuggono dalla guerra. C'è un'altra storia che parte da un movimento xenofobo e razzista, è una storia ambientata in Germania, ma che poi finisce con la formazione di una banda musicale, quindi ancora una volta musica impegnata, musica in prima linea. E vi posso svelare un piccolo retroscena, nel senso che questa storia di questa banda musicale a Dresda è stato l'oggetto di un reportage che Silvia, la nostra Silvia Mannati, ha fatto per il suo fine corso alla Civica Scuola di Cinema Luchino Visconti qua di Milano. E beh, vi riproponiamo quella storia lì. L'antefatto di questa storia si chiama Pegida, è il movimento degli europei patriottici contro l'islamizzazione dell'Occidente. È un movimento che è stato fondato a Dresda, era il 2014, dalla Lutz Bachmann. È un movimento di estrema destra, xenofobo, e da 2 anni promuove manifestazioni di protesta contro l'arrivo dei rifugiati e degli stranieri in Germania. Ebbene, ogni lunedì sera si riunisce nella piazza della stazione dei treni di Dresda. Nel 2015 arrivarono circa 5.500 rifugiati appunto nella città tedesca. Il caso eclatante fu ad agosto del 2015 un attacco all'hotel Leonardo di Freital a 6 km dalla città tedesca. Era un albergo che era stato convertito a struttura di accoglienza per i rifugiati. Fu un fitto lancio di pietre contro l'autobus che portava i migranti all'albergo e insulti razzisti. A quel punto i musicisti della banda comunale della città nell'estate del 2015 cominciarono a distribuire nel campo profughi di Dresda, dei volantini cercando di reclutare rifugiati, musicisti disponibili a unirsi a quella banda, e così nacque la banda internazionale. Sentite la storia, come nasce questa banda internazionale, dalla voce diretta di Michal Tomaszewski, che suona il clarinetto ed è uno dei membri fondatori, oltre a essere in qualche modo il portavoce. Sentite. We started banda comunale like 15 years ago. Abbiamo fondato banda comunale circa 15 anni fa, perché c'erano molte manifestazioni di nazisti a Dresda, visto che c'era la ricorrenza del bombardamento della città. Quindi i neofascisti volevano rivendicare la data per se stessi e noi abbiamo fondato una brass band non troppo professionale per unirsi ai cortei. Siamo diventati una brass band abbastanza popolare e regionale, un gruppo che suonava un po' ovunque, dalle feste ai matrimoni. E quando Pegida è nata, Pegida è un movimento nato a Dresda contro l'islamizzazione dell'Occidente, abbiamo suonato durante un sacco di cortei di protesta contro questi estremisti e abbiamo inventato un modo creativo di manifestare. E poi la scorsa estate sono arrivati moltissimi rifugiati a Dresda e in Sassonia e noi abbiamo deciso non solo di manifestare contro il razzismo, ma di cercare musicisti rifugiati che avevano lasciato il proprio paese. E ne abbiamo trovati tanti, così abbiamo fondato una nuova banda a partire da banda comunale. Ci sono rifugiati che suonano strumenti orientali o anche la chitarra elettrica dalla Palestina, Siria, Iran, Iraq. Abbiamo anche uno studente di tedesco del Burkina Faso. Ora siamo quasi 20, siamo diventati abbastanza famosi non solo in questa regione, perché sembra un'idea abbastanza unica suonare musica tradizionale. Non suoniamo né reggae né rock, ma canzoni tradizionali da tutto il mondo. We play traditional tunes from all over the world. A Michal Tomaszewski abbiamo anche chiesto quanto e se abbiano ricevuto sostegno da parte della popolazione di Dresda. Sentite che cosa ci ha detto. Le manifestazioni contro Pegida non sono mai state grandi come quelle di Pegida, quindi siamo sempre stati meno numerosi di loro. La nostra banda si è trovata a essere una parte importante del movimento contro il razzismo. Per esempio, la nostra pagina Facebook è cresciuta molto in un anno, passando da 400 a 6.000 like. La gente guarda cosa facciamo e ci sostiene. Abbiamo ricevuto moltissimo sostegno non solo dalla popolazione, ma anche dallo Stato. Quindi ora possiamo permetterci di registrare un CD e di comprare strumenti musicali da dare ai musicisti che hanno lasciato il loro paese. Oltre alle performance dal vivo, ai concerti, la banda internazionale ha per caso in programma di registrare un CD? Sentite cosa dicono? We still have to record it. The problem is that... Dobbiamo ancora registrarlo. Il problema è che quando abbiamo iniziato il progetto abbiamo avuto più di 300 o 400 richieste per suonare a concerti. Suoniamo quasi tutte le settimane, spesso anche più di una volta. Quindi non abbiamo avuto davvero abbastanza tempo per registrare il disco. Da una parte perché suoniamo sempre, dall'altro perché la banda non è solo un progetto musicale, ma anche sociale. Aiutiamo i rifugiati che suonano con noi a risolvere i problemi che riguardano la casa, l'amministrazione, li accompagniamo dal dottore, è qualcosa che potresti chiamare programma di integrazione, che si svolge nel campo della musica. Ma siamo cresciuti da 11 amici a quasi 20 amici, abbiamo condiviso non solo musica, ma ogni genere di problema. Se la banda internazionale nasce come reazione al movimento Pegida, qual è la situazione appunto del movimento xenofobo a Dresda? Sentite cosa dice ancora Michal Tomaszewski. La situazione si sta facendo un po' strana. Da una parte sembra che i membri di Pegida siano sempre meno, ma dall'altra questa idea di fomentare l'odio contro i musulmani e gli stranieri in generale si sta diffondendo in tutta Europa. Puoi vederlo in Ungheria, in Polonia, in Gran Bretagna, anche con la Brexit. Queste sono tutte idee di estrema destra. Certo, non puoi dire che sia iniziato tutto a Dresda, non è la stessa cosa. Ma è un sintomo che la gente è confusa e che è il momento di lavorare sulla democrazia e sull'idea di Unione Europea. Altrimenti saremo rispediti indietro di decenni, fino ai tempi degli stati nazionali e del nazionalismo, cosa che secondo me e i miei amici sarebbe molto pericolosa. For me personally and my friends, very dangerous. E veniamo adesso al cuore, a quello che potremmo definire la missione della musica, che è un po' anche il cuore della puntata di quest'oggi di Nessun Luogo Lontano. A cosa serve la musica della banda internazionale? Le parole di Michal Tomaszewski. La missione penso abbia diversi livelli. Da una parte vogliamo dare il benvenuto ai così numerosi rifugiati che arrivano in Germania. Quindi suoniamo canzoni del Medio Oriente, del Nord Africa e dell'Africa centrale. Vogliamo mostrare alle persone che siamo interessati alla loro cultura e dare loro l'impressione, anche per un breve momento, di essere a casa. Questa è una parte dell'idea. L'altra è certamente di dare la possibilità ai musicisti di entrare nella nostra società. Organizziamo incontri per loro con altri musicisti. Diamo loro un volto, anche se molti sono già conosciuti in città e suonano anche in altre band. Alcuni di loro hanno anche incontrato musicisti piuttosto famosi, come Sting. Per esempio, il prossimo album di Sting vedrà la collaborazione proprio di un musicista della nostra banda. La seconda parte della missione è mostrare ai tedeschi che l'integrazione non è così difficile come tante persone sostengono. Facciamo molto lavoro di pubblicità su Facebook, su internet, sulla stampa e in TV. E appariamo come un gruppo di amici che si divertono insieme. E andare d'accordo con l'altro è una delle cose che gli estremisti di destra dichiarano impossibile. Quindi noi invece cerchiamo di mostrare ai rifugiati e ai tedeschi che trovare qualcosa da condividere, dei punti di incontro, è possibile e non è nemmeno troppo complicato. Perché sai, anche le persone che vengono dalla Siria, dall'Iran, dal Kurdistan e che ora sono qui hanno i loro conflitti interni tra gruppi. I persiani non amano gli arabi non amano i curdi e così via. Non possiamo risolvere questo problema, ma possiamo provarci. Suoneremo per esempio a un festival ebraico e l'antisemitismo è una cosa piuttosto comune nel Medio Oriente. E anche questo è un tema da affrontare, discutere della convivenza tra culture e religioni diverse. E in questo nostro lungo viaggio per raccontare la musica in prima linea, la musica impegnata, la musica che celebra, la musica che combatte... Beh, vi faccio fare un doppio salto mortale. Attraversiamo l'oceano, andiamo negli Stati Uniti e lo facciamo con la note e con la voce di Andra Day. You're broken down and tired of living life on a merry-go-round. And you can't find a fighter, but I see it in you, so we gon' walk it out. Ooh. Andra Day ci riporta un altro esempio di musica impegnata. Il suo Rise Up, questo brano, era stato dedicato alle vittime e ai familiari di quella sparatoria, la ricorderete, a Orlando, in Florida, 49 vittime, 53 feriti al Pulse, al nightclub appunto della città statunitense. Ebbene, lì la scelta di Andra Day, dell'artista, era proprio di portare la solidarietà grazie alla sua voce e alla sua musica. Tutte storie in cui la musica si impegna, la musica tratteggia nuove iconografie, la musica che racconta la guerra, la musica che è contro la guerra. The silence is quiet, and it feels like it's getting hard to breathe. And I know you feel like dying, but I promise we'll take the world to its feet. Move mountains, bring it to its feet. Move mountains. That we have each other. Sulle note di Rise Up di Andra Day io ringrazio Eleonora Ragona, Silvia Mannati e Antonio Talia, che hanno scritto con me anche questa puntata, Gianmarco Ferronato, che ci ha aiutato a mettere queste musiche, a sottolineare le nostre storie, voi per essere stati all'ascolto. L'appuntamento è per domani ore 16, quando di nuovo Nessun Luogo Sarà Lontano. Intanto un saluto da Gianpaolo Musumeci.